Casi Musicanti. Cercasi percussionista sballato, batterista un po' rock e un po' blues. Cercasi chitarrista molto flessibile, bassista abbastanza fuso. Cantante poco gradasso, sassofonista molto jazz. Accettasi qualsiasi tipo di musicante, fino anche un trombettista, un pianofortista o un flautista, oppure un arpista o un'arpia, o un flautista o un gommista, oppure anche un tassista. Musicanti.